as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui al Pane Rose. Io sono Gian Placido Ottaviano, come chi ci segue sa, sono un operaio metalmeccanico, un dirigente sindacale operaio della FIOM. La nostra trasmissione è aperta a tutti, è aperta a tutti i lavoratori che vogliono, che hanno qualcosa di interessante da dire. Affrontiamo varie tematiche come i contratti nazionali, i contratti interni, buoni accordi, cattivi accordi, crisi industriale. Purtroppo in questi anni abbiamo spesso parlato di crisi industriale. Abbiamo affrontato in questi anni la questione della pandemia, di come i lavoratori hanno vissuto la questione della pandemia, del Green Pass. Abbiamo anche fatto puntate un po' particolari in cui abbiamo invitato persone a parlare di temi che a noi interessano come lavoratori, la questione femminile, il precariato, tutte le questioni legate all'alternanza scuola-lavoro. Sono stati tra i primi a condannare l'alternanza scuola-lavoro, abbiamo sempre detto che è una cosa barbarica, cioè una cosa disumana. Quando si lavora bisogna sempre essere pagati, il lavoro va retribuito, non esiste il lavoro gratuito che si chiama schiavitù, abbiamo sempre detto. Oggi iniziamo il nuovo anno, il nuovo anno del Pane Rose, con quello che sta succedendo in Italia. Abbiamo il governo della Meloni, sinceramente posso essere duro, noi ce l'aspettavamo, avevamo detto più volte che laddove non c'erano risposte ai lavoratori avremmo avuto un problema politico che si ripercuote anche a livello sindacale, l'abbiamo visto dagli scioperi che ci sono stati in questi anni. I lavoratori non sono stati fermi, forse i dirigenti sindacali sono stati fermi, i lavoratori comunque hanno agito, sono scesi in piazza, hanno protestato in varie forme. E purtroppo non ci sono state le risposte politiche adeguate e la destra ha il suo zoccolo duro, i 12 milioni di italiani che continuano a votare a destra sono riusciti con il nuovo sistema elettorale a vincere le elezioni. Prima manifestazione post elezioni l'8 ottobre a Roma, la CGIL convoca una manifestazione. A dir il vero, questa è stata decisa molto tempo prima. Noi abbiamo intervistato Samuele Lodi, segretario regionale della FIOM. Io ero con lui il 14 settembre, quando Landini ha spiegato, prima che ci fossero le votazioni, 10 giorni prima, che saremmo andati comunque a Roma, che a prescindere da quale governo ci fosse stato, avremmo manifestato. E dunque, adesso è l'ora di scendere in piazza. Sentiamo Samuele Lodi, ci spiegherà le ragioni di questa manifestazione ed è anche il fatto che venerdì 7 la FIOM ha proclamato dell'Emilia Romagna 2 ore di sciopero in uscita. Poi ci sentiamo per le conclusioni. Salve a tutti! Trouble, come on, you want trouble? No! fucking time. Got me contemplating a solution to fusion. My wicked mind got suckers that hate me, but it don't really matter. I'm like a when I bust, niggas run and scatter. Moving in circles, throwing elbows and fists. You gotta be a real nigga in a cypress a pit. Lot of critics talking shit, but I'm not concerned. 100 G's for 60 minutes is the bank I earn. I try to put it to you bluntly so you just can learn that nobody get tired when it's time to. With so many phonies out there, a lot of you have been fooled into actually believing that some shit is cool. Take the blinders off and go look for yourself. Hearing about shit for somebody else. I'm down for myself, I back up myself. Put it all on the line, make sure that I'm found. Allora, siamo qui con Samuele Rodi, segretario regionale della FIOM. Il 14 settembre siamo stati ad ascoltare Landini, questa grande assemblea dei delegati, eravamo in tantissimi delegati della CGIL, in cui Landini ha lanciato la mobilitazione dell'8 ottobre a Roma. Adesso a Rodi chiederemo, insomma, di spiegarci le motivazioni di questa manifestazione, che ricordo a tutti quanti è stata indetta prima delle votazioni. Questo è importante perché è un gesto politico sindacale molto molto importante. Chiediamo a Rodi le motivazioni di questa manifestazione e, insomma, poi chiederemo anche altre cose. Sì, buongiorno a tutti, e parto proprio da questa considerazione, perché rappresenta in qualche maniera anche l'autonomia e l'indipendenza della CGIL, nel senso che questo percorso che porterà alla manifestazione a Roma l'8 di ottobre era stata decisa anche prima della crisi di governo, quindi da questo punto di vista non c'è timore di essere strumentalizzati o attaccati, o meglio, chi lo vuole fare appunto perché vuole strumentalizzare. Un percorso che in realtà è partito quasi un anno fa, possiamo dire dallo sciopero generale del 16 di dicembre del 2021, nel quale appunto si attaccava e si criticava le scelte, le decisioni, in quel caso lì in particolare sulla legge di stabilità del governo. A un anno di distanza, quasi un anno di distanza, siamo nelle medesime condizioni, peggiorato ulteriormente dal punto di vista delle condizioni dei lavoratori, ma dei cittadini in generale, relativamente all'inflazione, nella maniera in cui è cresciuta, e in particolare i costi dell'energia. Quindi è una manifestazione che deve essere centrale, deve essere considerata, diciamo così, centrale nella nostra attività, e ha una serie di rivendicazioni che vengono fatte verso il governo, e appunto allora si diceva c'era ancora il governo Draghi, oggi diciamo contro il governo indipendentemente da quale governo poi dopo si formerà nelle prossime giornate, e poi ha una serie di rivendicazioni anche nei confronti delle aziende, nei confronti del governo, perché è chiaro che noi abbiamo bisogno di un'inversione di determinate politiche, a partire anche e soprattutto dal tema del fisco. Cose che erano già state promesse l'anno scorso, e se ci ricordiamo bene l'anno scorso uno dei punti principali della nostra rivendicazione dello sciopero generale fatto insieme alla UIL era appunto la riforma, quella parte di riforma fiscale che era stata inserita nella legge di stabilità, che non dà in alcun modo risposte ai lavoratori, alle lavoratrici e ai pensionati. Appunto, siamo ancora nelle stesse condizioni, con l'aggravante che in campagna elettorale si è solo parlato di flat tax sì e flat tax no. Ora è evidente come la flat tax ai dipendenti e ai pensionati non porta nessun tipo di beneficio, assolutamente. È altrettanto vero però che dei benefici i lavoratori e i pensionati non li hanno visti nemmeno negli anni passati, quindi questo è il primo tema. Dopodiché c'è anche una questione legata alla guerra, quindi alla situazione che stiamo vivendo a livello internazionale. E quindi anche da questo punto di vista, al di là della critica rispetto all'impostazione che abbiamo voluto dare noi come paese, inseriti diciamo così nella coalizione occidentale, quindi nella NATO, è evidente come non sta portando nessun tipo di risultato positivo sul conflitto a livello internazionale. E a livello nazionale noi vediamo, con anche la decisione delle sanzioni nei confronti della Russia, in quale situazione noi siamo, e quindi anche in questa condizione non possono essere lavoratori e pensionati a pagare. E quindi, a fronte del fatto che presumibilmente a breve molti lavoratori saranno interessati dagli ammortizzatori sociali, perché le aziende, a partire da quelle della ceramistica, ma via via verranno interessate anche le aziende metalmeccaniche, verranno interessate appunto da processi di cassa integrazione per gli eccessivi costi dell'energia, ecco, è opportuno, uno, come dice la CGIL, che il massimale di cassa integrazione venga alzato, perché oggi un lavoratore in cassa integrazione paga due volte, appunto perché è in cassa integrazione, e secondo perché è in cassa integrazione alle bollette della luce e del gas, come conosciamo e come stiamo constatando in queste giornate. Dopodiché la rivendicazione su questo tema che facciamo nei confronti delle aziende invece è quello che, a fronte del fatto che il governo ha messo a loro disposizione una cassa integrazione specifica, che è quella per i costi dell'energia, sulla quale non devono pagare per esempio i contributi addizionali all'INPS, ecco, noi diciamo quei soldi che le aziende risparmiano devono essere riversati ai lavoratori sotto forma di integrazione al reddito. Quindi ecco, la manifestazione di Roma è un passaggio centrale per noi. Noi veniamo appunto da un percorso iniziato un anno fa, nel quale lo sciopero generale lo abbiamo fatto insieme alla UIL, poi siamo passati per la manifestazione di Roma del 16 di giugno a Roma, nella quale eravamo da soli come CGIL, e anche questa manifestazione dell'8 è solo come CGIL. È chiaro che noi non vuole essere, e i messaggi non sono contro gli altri sindacati, anzi noi speriamo di recuperarli, perché avremo bisogno dell'unità dei sindacati per affrontare questa difficilissima condizione, questa difficilissima situazione. È evidente però che giustamente la CGIL, fatta la sua elaborazione, fatte le sue discussioni e individuate le strategie, poi deve mettere in campo la mobilitazione. Tra l'altro non dimentichiamoci che l'8 di ottobre fondamentalmente siamo a un anno anche dall'attacco fascista alla sede della CGIL, quindi anche questo è un elemento per noi centrale, che oggi più che mai parla anche a quello che è stato l'esito delle elezioni, a quello che sarà il futuro governo che si andrà a formare. In questo contesto noi come Fiamme in Emilia Romagna abbiamo provato dare gambe, dare più forza ancora a questa manifestazione, anche a fronte del fatto che noi non abbiamo mai smesso di fare le assemblee e di andare nei luoghi di lavoro e incontrare i lavoratori e le lavoratrici. Quindi noi sappiamo e conosciamo quello che è il clima e quello che è l'umore dei lavoratori. Quindi ecco che abbiamo messo in campo un'iniziativa di sciopero di 2 ore in tutta l'Emilia Romagna, nelle aziende dell'industria, dell'artigianato, metalmeccaniche, proprio per dare maggiore forza a questa mobilitazione della CGIL. La FIOM sciopera, e chiaramente solo la FIOM dell'Emilia Romagna. Io come metalmeccanico, come è scritto FIOM, delegato sindacale, chiaramente sono molto d'accordo. Sono un po' triste perché in questo momento, visto pure quello che sta accadendo in tutta Europa, uno sciopero generale penso che sia quasi d'obbligo. un governo che sta per togliere il reddito di cittadinanza, dunque un governo che chiaramente pare che sia nemico dei più poveri. In più, giustamente, la rivendicazione che chi va in cassa integrazione non debba pagare due volte, rischia proprio di fare la fame, perché sono delle bollette che sono talmente alte che non coprono nemmeno non vengono coperte nemmeno con i soldi della cassa integrazione. Queste sono tutte questioni che il governo che sta per nascere non l'affronterà. Dunque è chiaro che questa manifestazione, io spero che sia preparatoria a qualcosa che debba essere molto molto duro e molto forte. È evidente che i temi che stiamo dibattendo e che sono alla base delle rivendicazioni della manifestazione dell'8 di ottobre sono temi generali, trasversali, quindi in ambito sindacale sono confederali, cioè quindi riguardano la totalità dei lavoratori e tutti i pensionati. E quindi, a fronte della legittima osservazione di qualche lavoratore che dovesse pensare o dovesse dire: ma su queste questioni che sono generali, perché solo la FIOM eventualmente mette in campo l'iniziativa di sciopero? Io ricordo semplicemente che la FIOM fa quello che ha sempre fatto e in molte situazioni, in molti momenti, insomma, della storia, noi in qualche maniera ci siamo mossi prima per poi dopo mettere, diciamo così, dare la spinta definitiva a tutta l'organizzazione. Ci siamo assunti questa responsabilità nel passato, lo facciamo oggi e lo faremo anche nel futuro, perché è evidente che la CGIL è una grandissima organizzazione di 5 milioni di iscritti tra lavoratori e pensionati, e quindi è evidente che all'interno di questa grande organizzazione le sensibilità e le condizioni anche sono diverse tra i lavoratori, tra i luoghi, nei luoghi di lavoro, tra i pensionati, sono diverse da regione a regione, da zona a zona, da territorio a territorio. E quindi in qualche maniera questo vuole essere il nostro intento, l'intento della FIOM, quello di spingere. Ma noi lo possiamo fare, ribadisco questo concetto perché per me è centrale, perché noi in questi mesi, anzi torno all'inizio del 2020, quando è scoppiata la pandemia, noi non abbiamo mai smesso in questi ultimi 2 anni e mezzo, quasi 3, di andare nei luoghi di lavoro a incontrare i lavoratori e le lavoratrici. Quindi è per questo che dico che noi abbiamo veramente il polso nei luoghi di lavoro. Luoghi di lavoro e lavoratori e lavoratrici che nel corso delle assemblee anche si arrabbiano, cioè viene fuori tutta la loro preoccupazione, tutta la loro rabbia, ed è giusto ed è naturale che sia così, perché i loro interlocutori, cioè loro, possono parlare delle loro problematiche al lavoro e fuori come cittadini solo con il sindacato, solo con la FIOM in questo caso, perché non hanno altri momenti e non hanno altri interlocutori con i quali parlare. Quindi noi ci facciamo carico di questi bisogni dei lavoratori e proviamo ad aprire un percorso che dovrà, a mio giudizio, portarci però in tempi rapidi anche a una mobilitazione più generale. Dunque, venerdì 7 ottobre la FIOM proclama 2 ore di sciopero in uscita per tutte le aziende metalmeccaniche. Poi l'8 ottobre tutti a Roma. Se un lavoratore volesse aderire a questa alla manifestazione dell'8 ottobre? È chiaro che attraverso appunto i propri funzionari, insomma, può fare da riferimento, perché la FIOM si organizzerà in tutti i territori. Chiaramente adesso io parlo per l'Emilia Romagna, per scendere a Roma in manifestazione, quindi è necessaria la più larga partecipazione di lavoratori e di lavoratrici, e tra l'altro anche per in qualche maniera rafforzare e facilitare in qualche maniera la possibilità di partecipazione dei lavoratori e di lavoratrici, abbiamo deciso proprio in queste ore di fare una dichiarazione di blocco degli straordinari anche per la giornata dell'8 di ottobre, quindi per la giornata della manifestazione. Per gli studenti che volessero partecipare, per i pensionati e tutti, bisogna fare riferimento alla CGIL? Sì, possono fare riferimento alla CGIL, adesso pur non avendo notizie, informazioni certe dal punto di vista degli orari, però dall'Emilia Romagna la CGIL ha organizzato anche alcuni treni speciali, quindi ci sarà la possibilità anche di raggiungere Roma in treno. Ti ringraziamo e grazie di tutto, Samuele. Man in the streets, go on top. Plant up a green and nothing, not touch me. Watch me, yeah. But I want to feel, nah, watch nothing. Man in the streets, go on top. Plant up a green and nothing, not touch me. Don't be about the trouble, free your mind. Don't be body under the rubble. Seize your time. Don't care about the struggle. Free your mind. Don't be about the trouble. Seize your time. Don't be about the. When I'm watching a face, now I watch nothing. Man in the streets, want on something. Plant up the greens and we not touch mutton. Well, I'm a friend for pack and it's ready for bust it on the double then. Nothing not dead, live and kicking. Them love me down a yard like a rice and chicken. That's how me plant piece of corn down a gully dirty bad mind. People use knife and killing stuff. When I watch my face, can't watch nothing. Man in the streets, want on something. Plant up the greens and we not touch mutton. Well, I'm a friend for pack and it's ready for bust it on the double then. Nothing not dead, live and kicking. Them love me down a yard like a rice and chicken. That's how me plant piece of corn down a gully dirty bad mind. People use knife. Don't be about the trouble. Free your mind. Don't be under the rubble. Seize your time. Don't care about the struggle. Free your mind. Don't be about the trouble. Seize your time. Don't be about the trouble. No, we not copy them none at all. Be them not go ball, cause nothing ever fall. Live a better life. Get this a king to last it, then you're surely gonna die. And death is not the opposite of life. You live and then you die. Then you reach high. Prima di questo bellissimo pezzo musicale abbiamo ascoltato Samuele Lodi, segretario regionale della FIOM dell'Emilia Romagna, che ci ha spiegato le ragioni dello sciopero della FIOM, le due ore di sciopero del 7 ottobre, venerdì in uscita. Ricordo a tutti i metalmeccanici che ci ascoltano che è importantissimo, compreso il blocco dello straordinario, perché l'8 ci si va in piazza a manifestare e non si lavora, c'è il blocco dello straordinario per sabato 8. Sembra assurdo, ma in questo momento di crisi, soprattutto a Bologna, sono un sacco di aziende che lavorano di sabato in straordinario. E abbiamo sentito il programma, la piattaforma che la CGIL presenta al governo, che presenterà al governo l'8 ottobre. Ci sono moltissime cose che noi condividiamo come il pane e le rose, sono necessarie, come l'aumento della cassa integrazione e un incentivo. Sappiate che a Bologna noi sono anni che chiediamo alle aziende, quando ci chiedono la cassa integrazione, di incentivare a livello giornaliero la cassa integrazione con 10 o 15 euro in più, dipende poi dalle aziende. Oggi sì, c'è necessità impellente. Con l'aumento delle bollette veramente si rischia di andare in cassa integrazione e con i soldi della cassa integrazione si pagano le bollette. Alcune famiglie si troveranno a pagare con i soldi della cassa integrazione le bollette. Dunque, immaginate che situazione atroce, cioè si potranno trovare tantissime famiglie a non avere i soldi per poter comprare il cibo. Siamo in una situazione drammatica. La guerra incombe, e sempre di più si va verso un'escalation. Dunque la guerra sembra non terminare, non c'è nessuna volontà da nessuna delle parti di fermare questa guerra, dunque ci sarà una situazione di crisi economica quasi per forza. Questo fa sì che il sindacato chiede al governo e a Confindustria di non far pagare questa crisi ai lavoratori. Sarà durissimo far questo. Noi l'abbiamo visto nel 2008, 2009. La crisi, noi scendevamo in piazza e chiedevamo che non la pagassero i lavoratori. L'abbiamo pagata noi, con licenziamenti, cassa integrazione. E allora non c'era l'inflazione di oggi. La situazione è molto, molto peggiore. Non c'era una guerra. Non c'era una vera e propria guerra. C'erano tante guerre in giro per il mondo, ma non c'era una guerra. Lì era una questione finanziaria grave, di speculazione che aveva creato questa mega bolla che poi aveva creato questa crisi, ma non c'era l'inflazione di oggi, non c'era una guerra, ripeto, non c'era il problema per reperire le materie prime. Questo significa che potrebbe esserci una situazione veramente drammatica, con tutti i problemi che ci sono ancora oggi, precarietà, le forme delle pensioni, sono cose che non sono state risolte in questi anni, anzi sono peggiorate. Ci avevano promesso che togliendo l'articolo 18 con il Job Act non ci sarebbe stato più precariato, invece ce n'è più di prima. Oggi senza l'articolo 18 i padroni continuano a sfruttare i lavoratori col precariato e con l'alternanza scuola-lavoro. I padroni non hanno pietà, più possono sfruttare più sfruttano, non è che tu li fai di dai contentini e loro dicono vabbè però ci è andato questo, adesso facciamo i bravi, no, continuano, più possono succhiare più succhiano il sangue dei lavoratori, non c'è fine. Sono un pozzo senza fine. Ecco perché dobbiamo reagire. E credo che con le manifestazioni, con la mediazione, c'è anche oggi, negli ultimi giorni, c'è una specie di apertura, no? Si va verso il governo dicendo questa è la nostra piattaforma, noi che siamo completamente chiusi, se il governo accetta di fare queste cose noi potremmo comunque collaborare, anche se siamo antifascisti. Cioè, io penso che non ci sono le condizioni per poter provare una mediazione. Oggi l'unica possibilità è il conflitto duro, senza pietà, per far capire ai padroni che noi non ci stiamo a pagare questa crisi. E ribaltare questo governo oggi con la forza della classe lavoratrice è l'unica soluzione per combattere la destra. Dobbiamo portarci con noi tutti i lavoratori. La stragrande maggioranza degli italiani non si è sposta da destra. Non c'è stato uno spostamento di persone a destra. Sono sempre quei 12 milioni di voti da quando io ero ragazzo e si votava Berlusconi, sono sempre quelli. Ecco perché dobbiamo essere più duri e chiederemo al sindacato di fare il suo ruolo come si deve, di veramente non fare nessun sconto a nessuno. Non c'è la possibilità di fare mediazione, di fare concertazione. Questo è il momento del conflitto e speriamo che arriveremo prima possibile a questa situazione. Io lo auguro. Salve a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata. Che fatica che ti chiedo.